io sto operando uno che non funzionava e l'ho messo, rimaneva nel 19, dai, solamente nel 19, di quelli piccoli di intascabili, l'ho attaccato e stavo provando se funzionava, di quelli proprio piccolini, che non so neanche che cosa, un ala 77. No, però, io tutti quanti dati, no, io proprio quelli degli anni 70 che sono molto affezionato, quello che ho attaccato prima, ho attaccato l'altro, sta. Quelli più moderni, a me non lo so perché me ne sono capitati tanto in mano di quelli vecchi, antichi degli anni 70 e dico la verità, uno l'ho comprato e da poco e l'ho dato a Claudio, c'era Claudio, l'ho regalato a Claudio e Lafayette, le 23 canali, quello che stava operando lui, stava dicendo lui, gliel'ho dato io a Claudio. Thank you. beh, c'è qualcosa in più. Bisogna avere anche passione, capito Gianni? Bisogna averci anche passione. Io ripeto, io c'avevo il 340, l'altro 340, ma l'ho tenuto poco, l'ho dato, ce l'ha Claudio e credo che ce l'abbia ancora, l'ho venduto a Claudio. Vento si sta mettendo. Ce l'ho una cameretta, ma non ne ho messo più a casa, io non ne ho, io ce l'ho giù, questo dove c'è questo magazzino, sotto casa, dai, io non ne ho, ce l'ho, diciamo, una camera, perché ormai i miei figli non ci sono più, sono tutti sposati, e ce l'ho una camera, c'è rimasta una cameretta dove c'era, ne ho più di una di camerette se vorrei mettermelo a casa, ma non me l'hai messo su a casa, capito? L'antenna ce l'ho su di casa, però non l'ho mai messo apparati dentro casa. No, ma io ho Blocchetto, quello dell'NP, si chiamava Angelo Blocchetto.